la pioggia cade quando un fiore muore, è bello il fiume quando l'acqua è pura, ma questo l'uomo non lo pensa mai. Sapete perché il mondo va? Perché intorno al mondo gira l'amore. E allora com'è? Oh mamma dimmi tu, avevo un bel biondino e adesso non l'ho più. Caro bebè, tu non lo sai, chi non ha soldi non naviga mai. Caro bebè, la verità è una farfalla che viene e che va. Ma questo l'uomo non lo pensa mai. Sapete perché il mondo va? Perché intorno al mondo gira l'amore. E allora com'è? Oh mamma dimmi tu, avevo un bel biondino e adesso non l'ho più. Caro bebè, tu non lo sai, chi non ha soldi non naviga mai. Caro bebè, la verità è una farfalla che viene e che va. Mi disse non pensarci, la vita è una speranza che cammina, nel cuore ti ho lasciato una stella, cammina che la strada si fa bella. Sapete perché il mondo va? Perché